Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. A volte penso ci siano persone che viaggiano in treno per farsi guardare. Tanto che mi viene il sospetto che viaggino apposta, non abbiano destinazione, non abbiano meta, non abbiano nessuno che li aspetti in nessuna stazione del mondo. Ma loro viaggiano in treno perché sono perennemente in viaggio e quindi perennemente in esposizione. Mi è venuto questo sospetto quando me la sono presa con un signore che aveva appoggiato il suo trolley sul sedile a me destinato, corrispondeva al mio numero. E subito me la presi con lui e dissi: come mai appoggiato? Le rotelle che hanno calpestato, tutti gli sputi, tutte le schifezze di cane, di tutte le stazioni che lei avrà percorso sul sedile in cui debba sedere. Lui, con fare tra il mesto e l'arrabbiato, ha tolto il suo trolley e l'ha messo nell'apposita cappelliera. Dopodiché ho cominciato a osservarlo. Era un signore d'altri tempi. Nessuno porta più i capelli lunghi quando i capelli sono bianchi. Nel modo di vestirsi mi ricordava qualcosa che affondava le radici nella mia giovinezza più remota. Mi ricordava Shel Shapiro. Ma lo ricordavo per un semplice ricordo di bambino, perché stava assieme a Rita Pavone, che girava per le città italiane al seguito della riduzione televisiva del Gian Burrasca, che mi fece tanto soffrire perché ero affezionato al Gian Burrasca di Vamba, quello con la copertina verde. Beh, Shel Shapiro era stato compagno di Rita Pavone in questa avventura, ma era stato anche un cantante che poi negli anni a seguire ho rivisto assieme a Patti Pravo, assieme a Vesse d'Orighezzi, assieme a tutto ciò che rappresentava un mondo che per me era soltanto lambito. E rivedermi davanti una sorta di clone di Shel Shapiro mi fece ricordare improvvisamente gli anni passati, mi fece fare un tuffo nella fanciullezza, nella giovinezza, adolescenza, nelle epoche più maledette della mia vita. E tutto questo casualmente, lungo un mio viaggio in treno, senza meta e senza scopo. La mia somiglianza a Shel Shapiro niente, insomma, praticamente è impressionante. È una cosa bella, ma cioè, c'è un lato A e un lato B in me, cioè io sono il lato A e il lato B sarebbe una cosa meravigliosa perché assomigli a un personaggio, no? Ma lei per assomigliare a questo artista ha fatto qualcosa? Si fa crescere i capelli, fa qualcosa di particolare? No, io tanto con i capelli lunghi, la barba, no? Sì, sono anche abbastanza alto, non troppo, 1,70. Beh, ci gioca un po' sopra sulla somiglianza. No, io non ho mai giocato nella sua somiglianza. E il fatto è questo, appunto, che quando io mi muovo, che vado da un posto dall'altro, no, oppure in discoteca perché insomma mi piace, oppure una sala dove c'è il liscio, una sala da ballo, dove ballano il liscio. Una sala da ballo, esatto, un centro anziani. Sì, esatto, e anche in treno, perché io quando mi sposto dal Veneto che vado a Bologna, perché io sono residente a Bologna. Ma lei si veste anche d'artista un po', vedo un pochino. Beh, l'artista certo, io qualcosa ho fatto, cioè come comparse, come del film, oppure... Ecco, mi racconta l'episodio tipico in cui lei si siede in treno e qualcuno pensa di riconoscerla, cosa accade? Cosa accade? Accade che mi siedo, naturalmente, no? Mi trovo dei ragazzini o mi trovo delle signore, no, davanti, così. Beh, più facile signore oltre i 60 anni, chi se lo ricorda? No, ma anche persone di 40 anni mi hanno conosciuto. Quanto è alto lei? Io sono alto 1,75. Però Shel Shapiro è alto 1,93. No, ho capito che è alto, d'accordo, questo l'ho visto, d'accordo, lo conosco, anche le sue canzoni. 30 centimetri mancano. No, ho capito, però io viaggio sempre con dei stivaletti, no? Ah, si alza col tacco rialzato, quindi... No, ma stivolette me le ho sempre portati, no? Gli anni 60, io provengo dalla famiglia degli anni 60, né? E quindi praticamente io sono sempre stato legato a roba, cioè mi vesto da jeans, camicie fuori, però belle. E canticchia, ma che colpa abbiamo noi questa cosa qua? No. Sì, esatto. È bellissimo, insomma, voglio dire. Però io non ho mai giocato su questa cosa qua. Ma quando mi capita, purtroppo, io dico no, guardi. Lei fa finta di niente, su, dica la verità. Per un attimo lascia l'illusione. No, io faccio finta di niente quando mi prendono quei telefonini. Le fanno le foto? Ho un doppio gioco, né? Io da una parte sono io, ma dall'altra parte devo essere sempre sveglio, perché le persone so che mi guardano, è lui o non è lui, no? E lei parla un po' come Shapiro, con quell'accento, quell'inglese tarocco dei cantanti degli anni 60. Devono capire che io sono un altro, insomma, è così. Però ma la foto assieme la fanno mai, un selfie con lei come fosse Shapiro? È piacevole a vedere, no? Perché loro dicono, beh, io ho le foto di Shapiro, ero in treno, no? Oppure in discoteca, io ho ballato con Shapiro, no? E beh, in discoteca si vede, però. Si mettono attorno alle signore, né? Ma lei canta pure? No, io non canto. Se chiedo, canta, ci bisogna saper perdere, e lei che fa? Mi devo lasciar perdere. Vedi, la sa, è vedi, è uguale, identico, due gocce d'acqua. Poi si è allenato un po', si è allenato a fare Shapiro. Ma no, non sono allenato, veramente. Le ha mai procurato, diciamo, qualcosa di piacevole questa somiglianza? Cioè, ci ha mai giocato fino in fondo? No, mai giocato. Ma è una donna, dice ti amo perché sei come Shapiro, no? Beh, insomma, è certo che... Che aiuta. Aiuta, beh, certo, mi sono accorto che aiuta, certamente, però non voglio, alla mia età non posso farlo. Io tutto vabbè, guarda vale che Shapiro mica è un bambino, eh. No, ho capito, ma dico, alla mia età, io ho 67 anni, cosa faccio, lo stupido, il cretino con le persone? No, cioè io devo dire che non sono io, lo devo dire, però sì. Insomma... Però visto che somiglia... Purtroppo non ci credono. Anche se te lo dici. Insisto, no? Pensano che sia Shapiro che fa finta di essere un altro per non essere disturbato. Appunto, che qualcuno appunto l'ha detto, ha detto guarda, dice, sono anche bravi, no? A simulare. Di camuffarmulare per non essere loro, no? Per non essere disturbato. Vabbè, bocca al lupo, spero che verrà il giorno in cui lei sarà noto come Shapiro e quindi Shapiro appassirà l'ombra della sua immagine immaginifica nei treni d'Italia. Se ne va prima. Che se ne va prima? Che ne so, è che lo sa il padre eterno. Certo, se va via prima lui, lei è una bella chance, può fare la controfigura, l'unico Shapiro rimane lei. Ma lui è andato via, voglio dire, non servo più. Cioè, voglio dire, quando tante volte ancora vedono Elvis che gira per strada, erano di Shapiro. Va bene, comunque non è facile. È come d'altronde se il destino le ha dato questa missione, ci sarà una ragione. La dovrà portare con dolore, con fatica, fino alla fine, al suo termine, poi vedremo chi sopravviverà e chi avrà maggior gloria, se il prototipo o la copia. A presto! La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso. Il treno va. Viaggiare in treno mi piace perché viaggiando in treno ci si rende conto che in Italia non ci sono soltanto le città. E se ne rende conto soprattutto un metropolitano avvelenato come me, che è nato e vissuto in campagna fino più o meno a 20 anni della sua vita. Il treno passa attraverso i campi coltivati, ancora qualcuno coltiva la terra, si vedono campi arati, si vedono campi mietuti, si vede del grano appena raccolto, si vedono i fasci di paglia abbandonati sui campi, e si vedono i trattori che fendono la terra, si sente quasi